Il sapore dei tuoi piatti è legato a un filo. Olio extravergine di oliva Dante. Dal 1860 Dante accende i sapori della cucina italiana. Da da da. Pensavate di esservi liberati di noi, invece no. Sulle note di MacGyver, noi come la più brillante delle invenzioni, appunto di MacGyver, siamo tornate in onda. Torniamo in primavera, cari miei. Ecco, un altro pezzo che probabilmente oggi vi faremo ascoltare riguarderà queste famose strofe, no? Bene, vi siamo mancate dopo un mese di assenteismo sì. Giustificato perché siamo state ammalate, siamo state rapite sul lavoro, un sacco di roba. Vedo manine che volano qui di fianco. Mo su, mo vedrai. Vorrei un sottofondo musicale per questa primavera appena arrivata. Non abbiamo neanche voluto salutare l'inverno noi. No. Abbiamo voluto... Oh, di questo io parlavo. Voglia di stringersi un po'. Vino bianco, fiori e vecchie canzoni. Questo ovviamente è il sottofondo che potrebbe di accompagnare la prima puntata primaverile dell'Accademia della Brusca. Quindi... Stavi per dire crusca. Sì, perché no? Non mi hanno ancora dato indietro la mia tesi. Ecco. Volevo ricordarlo a tutti gli ascoltatori del Wombat che all'epoca io feci un concorso per entrare nella Brusca, dove non mi presero, ma si tennero la mia tesi. Ma la Brusca l'ha presa, L'ha presa tutta intera senza la tesi, meno matta di una parte, ma insomma ce la possiamo fare. Vorrei quindi sì che mi venisse restituita questa parte. Ecco, ora mando una letterina. Sì, mi sento sugli autoscontri con questo sottofondo. Poteva andare peggio, sì. Ma come mai abbiamo fatto anche tardi? Chi è che ostacola la nostra presenza in qualcuno regia? Qualcuno dei dischi dello scantinato, se ci permettono questa traduzione veramente maccheronica. Perfetto. Sarà mica qualcuno dei Basement Records che si è infilato nella regia per preparare. Non sappiamo niente, noi non ci siamo. Ma tu cosa ne pensi di Loretta Goggi? Loretta Goggi tanta lana proprio. Ma ce l'hai un vinile di Loretta? Nello scantinato. Ma potrebbe venire fuori, chi lo sa, eh? Sei ingaggiato. Guarda lì com'era la Loretta. La Loretta, tanta lana. Notevole, poi insomma una grande carriera, dai. Era anche fidanzata con qualcuno di importante. Riccardo Fogli. La risposta era fidanzato con qualcuno di importante, la risposta è sempre Riccardo Fogli. Più o meno. Sì. Allora ritiro, era fidanzata con qualcuno di importante. È Riccardo Fogli. Fate finta di non aver sentito niente. E probabilmente è così perché non so se ho controllato i volumi dei microfoni. No, scherzavo, sicuramente avrete sentito tutto. Sì, sì, sì. E non è soltanto Riccardo Fogli ad essere un personaggio importante della... del panorama musicale, culturale, culturale italiano. Ma aiuto! Ok, la pianto. Sto per rimpiangere l'inverno, che oltretutto non se n'è mai andato, vista la... infatti. Visto un po' la... fare proprio un appunto su questa cosa, no? Voi dite della primavera... Non è primavera. No, assolutamente no. Non è primavera. Sarebbe. State dicendo delle cose false. Corbellerie. Sulla carta è primavera. L'equinozio si è spostato anche di un giorno. Sulla carta è suffrate indovino. L'equinozio è stato il 20 marzo dalle 11.45 alle 13.15. Sì. Un po' dopo, sì. Più o meno. È così. Insomma... vabbè, puntata... ma questo spot, no? Hai sentito lo spot che ti ho messo? Sì, certo. Che ne dici? Ti è piaciuto? Mi è piaciuto, trovo... mi ha ispirata. La Lenia si è bloccata. Si è bloccata la Lenia. Ho perso un pochino di praticità in regia. Un mese di vacanza mi fanno come 3 mesi estivi. Non so più scrivere né far di conto. Allora, non è un problema questa cosa della regia, perché tanto dobbiamo ancora dire tantissime cose, ma soprattutto infatti... introdurre la puntata di questa sera. Un mese fa ci eravamo lasciati con la glossopoiesi, quindi sempre tema linguistico, della creazione del linguaggio, di neologismi. Questa volta ci... come possiamo dire? Ci... quasi ricolleghiamo questa tematica, portandovi però nella sfera più aulica, ovvero se io vi dico non ragioniamo di lor ma guarda e passa, che cosa vi viene in mente? Il semaforo rosso. Cosa vi viene in mente? La giustificazione della mamma. La giustificazione finta della mamma per l'interrogazione della terza superiore su Dante, sulla Divina Commedia. Io pensavo stessi parlando del micro... Simona. Del semaforo per i pedoni. Non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Potrebbe essere anche l'autista dell'ATAF che dice questa cosa, sì, stirandoli di loro, direttamente. Ma guarda e passa, perché no? No, ci stiamo... stava? Confermano qui in regia, ho un aiuto. Importante aiuto, perché sennò qui non mi vuoi più credere. Ho perso tutta la credibilità. È perché la maggior parte delle assenze sono state causate da me. E quindi... 50-50. Ho perso un po' di credibilità. Ma no, non è vero. Infatti, noi la possiamo recuperare questa credibilità agli orecchi dei nostri ascoltatori con questa puntata su La Divina Commedia e Dante, e soprattutto sulle espressioni più idiomatiche. Non ridete, sono idiomatico. di questa opera e di questo... personaggino la cui statua si erge brutta e macrocefala in piazza Santa Croce. Brutta e macrocefala. Perché il naso è bellino, infatti. Allora. Perché scusa, non potete vedere il mio naso. Vabbè, allora mi ci metto anch'io, dai. Qui si fa una bella banda, ve l'assicuro. Probabilmente da Genova. Mi sembra il paletto di VLC. Anche i colori, un po' così. Non è vero. Allora, non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. È un celebre verso della Divina Commedia di Dante. È diventato un modo di dire piuttosto comune, seppure con numerose varianti come non ti curar di loro, ma guarda e passa, insomma, diverse. E appunto queste sono delle storpiature in realtà della versione autografa e più conosciuta e più esatta. Nel terzo canto dell'Inferno abbiamo Virgilio, per esempio, che in una tripletta diverso descrive i cosiddetti ignavi, io un'attribuzione in realtà mai usata da Dante ma data in seno alla critica. I vili, coloro che vissero senza infamia e senza lodo. Oggigiorno verrebbero più definiti come pigri. Fancazzisti, volendo, ma non si può più dire una parolaccia. Perché in tutto questo poi ci sono state anche le elezioni. Quindi, a proposito di senza infamia, senza quindi, lode. Cioè, tutto cambia, tranne la stagione, tutto il resto cambia. Guarda, cambieremo anche noi. Ecco, iniziando col mangiare le patatine in diretta, io una cosa che vorrei fare tantissimo è scrocchiare le patatine sul microfono. Ma che so abbiamo sempre fatto, quindi semmai dovremmo smettere. No. No, possiamo continuare a farlo. Allora, fama di loro il mondo esser non las, misericordia, giustizia, li sdegna. Non ragioniamo di loro, ma guarda e passa, che rima baciata. Dante ha una pessima opinione di tutti quelli che per viltà nella loro vita non si schierarono mai pro bono di qualcuno, quindi gli ignavi. Capito. A differenza di lui, il cui destino, se pensi soltanto alla sua condizione di esule, migrante, proprio per usare il gerundio, tra queste tre alterità del paradiso, del purgatorio e dell'inferno, al contrario ovviamente, gli fu proprio segnato dall'aver abbracciato idee politiche. Vedete, la nenia ci ha tirato fuori le lezioni, perché? Perché effettivamente tutto questo passo del canto effettivamente ritorna e più che altro va a sottolineare un pochettino già quanto all'epoca la... Noi intanto ci facciamo i cazzi nostri. Stanno facendo i cazzi loro. In quanto la condizione politica a lei. Fosse... Noi si parla ignavi di cose importanti, ignavi, del lavoro. Siete ignavi. Perdonaci, staremo più attenti. Più che altro io avrei una cosa da far sentire volendo, che è molto molto, vediamo se la riusciamo a trovare, anche più avanti con sì, calma. Sì, più avanti troviamo di tutto. Più questo avanti fra, abbiamo diciamo un'interpretazione, e anch'io. È un'interpretazione, diciamo, un pochettino più in chiave contemporanea di questo essere ignavi e di questo, insomma, modo di dire che viene usato tutt'oggi con un tono di biasimo e che viene rivolto a tutte quelle persone per le quali non vale nemmeno la parola di sprecare la pena di sprecare parole di condanna. E cosa bisogna fare? Si deve solo andare oltre, soprassedendo in silenzio. Questo è uno dei principali dantismi che abbiamo. Però, volendo, possiamo prenderci una pausa per sgranocchiare le patatine senza farvele sentire, mettendo su ma certamente un qualcosina per arriva. Il fiato. We'll be right back. cosa ti ricorda? Mi ricordo bei tempi andati, mi ricordo quando alla balera andava a ballare tutti quanti, vi siamo mancate, eh? Non potevamo mica iniziare con un pezzo serio subito noi, bisognava mettere su della merda così a caso. Su, ti ho fatto la puntatina su Dante, vicino di casa mia. Che cosa pretendevi? Oh, ascolta, ma Dante sarà mica quello che suona la fisarmonica nell'orchestra di Liscio, infatti. Ti sembra bene a me? Ma sì, ma è lui! E questa è la mazurka campagnola, c'è scritto così nel nome della, del pezzo. Potrebbe andare avanti per ore e ore e ore. Ma non ore. Lo faremo, non vi vogliamo così male. Però dai, insomma, era per festeggiare il nostro sì, ritorno, dai. Un po' come un capodanno. Un ritorno alla grande della Brusca, mai. Perché no? Esatto. Che dici? Dalai. Annuisce. Nel frattempo in questa regia Porto di Mare è arrivato anche una autodata che abbiamo prontamente mandato al bar a farci le altre birrette, perché poi dopo di noi ci sarà 8 Hertz con un'altra bella puntatina. Vi ricordiamo i nostri social, twitter.com/radiowombatfi. E i Facebook radio-wombat-firenze e la nostra mail bellissima dove potete insultarci con costanza a postawombat@insiberia.net. Continuiamo. Poi appena riusciremo eventualmente a recuperare il referto, la testimonianza audio, vi faremo sentire questo bel frammentone. Per celebrare non soltanto il non ti curar di loro ma guarda e passa, ma anche un pochettino la situazione politica che ci sta circondando in questo fantastico paese. Io sono in silenzio stampa fino al 2019. È lunga. Non mi esprimo mai più. Allora, oggi affrontiamo l'ultima un po' volta di dissi la situazione non è mica poi così grave. Guarda, dove stop, siamo andati non parlo a finire. Più la nostra Cassandra. C'è passata anche l'Auconte. Ecco. Sono anche due serpenti. E le 11 fatiche di. Ma di tutti, mi sa. Di tutti quanti. Che vincolo fanno un po' a tutti. Però andiamo avanti. Esatto. Allora, oggi vi parliamo appunto di questi dantismi. Cioè, la commedia dantesca non è soltanto il primo dei testi capitali, no, della letteratura italiana, come cita anche la nostra cara enciclopedia Treccani. Ed è uno dei primi testi capitali fin dal 300. Ma è anche uno dei documenti linguistici più ricchi e complessi di tutta la nostra tradizione, no? Per l'ampiezza dei temi trattati, del lessico, dei registri stilistici, per la varietà delle soluzioni, anche molto sperimentali, che vengono adottate. Come è noto, però, questa, sempre facendo riferimento a questo bellissimo termine che usa la Treccani, spregiudicata ricchezza linguistica e stilistica della commedia, ha indotto i grammatici del Cinquecento, tra cui il nostro carissimo amico Piero Bembo, un saluto, a preferire il distillato monolinguismo petrarchesco al plurilinguismo dantesco. Infatti la varietà del repertorio, oltre che quello sguardo della commedia sull'intera realtà italiana dell'epoca, quindi quasi un documento allegorico e storiografico al tempo stesso, giustificano effettivamente il celebre epiteto che Dante ha da sempre, che è il padre della lingua italiana. Questa immensa fama, goduta non soltanto da Dante, ma anche dalla sua commedia, fin proprio dai suoi primi tempi, ha fatto sì che scrittori italiani e stranieri di ogni epoca, ma anche parlanti comuni, senza velleità particolari, ne hanno tratto espressioni e stilemi, soprattutto ovviamente dall'Inferno, che è probabilmente una delle tre opere, tra le tre opere sicuramente la più ricca in sfumature ed espressioni idiomatiche, che è appunto cantica e popolare. Quindi frasi e frammenti della Divina Commedia sono diventati anche espressioni proverbiali. Nomi propri sono diventati antonomasie o termini di paragone, con Togolino in primis, e molti tecnicismi designati sono diventati degli oggetti oppure luoghi o concetti che si sono poi trasformati attraverso il meccanismo della metafora in termini più o meno comuni nell'italiano, il Cerbero per esempio anche mi verrebbe da dire. A parte poi la commedia, in realtà, il resto della produzione di Dante, quindi la produzione dantesca, non ha inciso poi particolarmente sui modi di dire. Per esempio, se pensiamo al Vita Nova, nessuno ha mai tratto probabilmente qualche cosa da quest'opera. No. Ad eccezione però di questo verso che vi sto per dire, che è tanto onesta, tanto gentile, tanto onesta, pare. Non appare. Che appunto è nel 26esimo capitolo, no? L'incipit del 26esimo capitolo della Vita Nuova, o Nuova, che viene spesso frainteso per via del cambiamento nel passaggio dall'italiano antico a quello moderno del significato di alcuni termini. Quindi qualche cosa, come vi ho appena indicato, viene travisata. Pare, appare. Parafrasato nella lingua contemporanea, nel nostro italiano di oggi, varrebbe più o meno all'incirca come un è tanto nobile e pudica, diciamo. Pare. Appare, sembra. Pare, appare. Abbiamo tantissime altre espressioni, effettivamente, dal far tremare le vene dei polsi a, per esempio, stavo guardando, inubrarsi, Galeotto fu, ovviamente, il gran rifiuto, e stai fresco. Ne abbiamo tantissimi, però prima di fare un po' un viaggetto all'interno di queste espressioni idiomatiche, io vi farei sentire un altro pezzetto che la nostra amica Nenia probabilmente riuscirà a scegliere tra, certo, questa grandissima, eccomi, vastità. Sono qui, di pezzi, presente, che abbiamo. Attenta, un'altra mazurka, sempre sul pezzo. Un'altra, no, mazurka. Ma figuriamoci se faccio questi scherzi. Voilà. Ma sia mai. Voilà. Disciple quick with it. So many talents, either dead or in prison. Bloodshed, believe. dopo la mazurka. Abbiamo messo un pezzo serio. Scusa, abbiamo aperto con Dante. Ora, volevi che il primo pezzo fosse un pezzo serio? No, no. Parliamone. Abbiamo aperto con Dante, abbiamo continuato con Dalek. Ora si va in ordine alfabetico, c'ho la F dopo. Di Fogli Riccardo. Quindi bisogna che lo metta, sì. Bisogna che cambi. Allora parto con la R. Ma insomma, i nostri nemici... Qui, nella stessa città, i nostri amici della Crusca, cosa hanno fatto loro? Cosa hanno fatto? Hanno sistemato, collazionato, si direbbe in gergo filologico, diverse espressioni dantesche, idiomatiche. Stasera vi vogliamo farvi una carrellata abbastanza veloce, così domani potrete vantarvi con tutti i vostri amici e colleghi del saper... parlare il gergo idiomatico dantesco. Partiamo con far tremare le vene e i polsi. Perché le vene e i polsi. Non le vene, che anche questa storpiatura piuttosto comune, le vene dei polsi. Certo. E far tremare le vene e i polsi fa parte di uno dei numerosi modi di dire proverbi che l'italiano ha attinto sempre dalla Divina Commedia, a causa dell'immediata enorme popolarità di questo poema, no? Nel primo canto dell'Inferno, Dante si rivolge a Virgilio, che è giunto in suo aiuto, e riferendosi alla terribile lupa che lo spaventa, dice al maestro: «Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremare le vene ai polsi». Polsi, sentite che bella questa cosa, deriva... diciamo, intanto, in questo caso viene utilizzato come sinonimo di arterie. Polsi deriva da pulsum in latino, anzi participio passato, del verbo latino pello, che significa battere. Il sostantivo pulsus, urto, colpo, era già stato utilizzato da Tacito, una delle fonti, diciamo, da cui Dante comunque prende spunto, ed è assimilato al battito cardiaco. Lo storico, infatti, quindi Tacito, lo usa nella locuzione pulsum venarum, attingere, col significato di tastare il battito delle vene e quindi dei polsi. E, poi ci sono... diciamo, queste, appunto, le varianti come far tremare le vene ai polsi e dei polsi, come dicevamo prima, sono delle lectio facilior, quindi una sorta di semplificazione un po' maccheronica, no? Non propriamente errata, ma scombinata. Le lectio facilior venivano spesso e volentieri ripetute all'interno, per esempio, dei manoscritti amanuensi e cluniacensi da parte degli scriba o dei... Che succede? Degli scriba un pochettino più distratti. E, niente, ti ho fatto una foto e l'ho messa su Facebook. No! Sì, perché eri troppo carina. Tutta, a parte questo, questa sera... Con questo colore dei capelli nuovo, questo così... E con io oggi indosso un poncio da mariachi. Ecco, mi sento quella del caffè insieme, paulista. Allora ho pensato di metterti su faccia libro. Così adesso, vero, tutti avranno i miei dati. Certo. Il bellissimo scandalo dei giorni scorsi la dice lunghissima sulla conoscenza, la vera conoscenza e la vera utilità dei social network da parte delle persone. Complimenti se soltanto oggi avete capito che vi stanno rubando l'identità e i dati. Più che l'identità, i dati. Siete manipolati tutti. Che se uno lo accetta come a saperlo. Cognizione di causa, dice vabbè, me ne frega. Tanto possiamo sempre mentire sui social network, possiamo sempre dare un sacco di dati falsi. Beh. Anzi, è anche molto divertente. No, scherzavo, in realtà facevo finta per spaventarti. Volevo vedere se ti risistemavi la chioma e se risistemavi il rossetto. Ma che dici? Sorvoliamo un pochettino su queste lectio facilior, magari le riprendiamo la prossima volta. Ma questo io, volendo, si può fare la prossima volta perché è veramente molto tardi. Oggi dovevamo tornare a tutti i costi, un po' così, improvvisando, però ce l'abbiamo fatta. Ecco, quindi ecco. È già tanto. Io vorrei invece dedicare un pochino di tempo a sottolineare quello che in realtà tutti gli altri hanno già fatto, hanno fatto per tanto tempo in radio, noi invece un pochino siamo stati assenti, quindi... No, cerchiamo di recuperare un pochino anche noi e ribadiamo quello appunto che ormai già saprete a memoria, che siamo arrivati alla trasmissione in AM con tanti sacrifici e con tanto sforzo, e siamo ascoltabili nelle frequenze 1359. Lo possiamo dire. Sì, la frequenza liberata in Italia, quindi ci potete ascoltare a Firenze sull'1359 e siamo noi Radio Wombat. E potete ascoltare la stessa frequenza 1359 a Genova con Radio Gramma. Che dire di questo AM? Non è un puntare i piedi per voler fare per forza quelli che vanno sulle frequenze chissà per quale motivo. È che semplicemente nell'agosto, come abbiamo diffuso un po' in giro nel nostro comunicato, che vi leggo qui, nell'agosto 2016, dopo varie sollecitazioni da parte della Comunità Europea, il Ministero per lo Sviluppo Economico, MISE, ha pubblicato un bando per l'assegnazione di alcune radiofrequenze in onde medie, quindi le AM. Il bando era lo scontro maldestro di due tendenze: concedere il diritto costituzionale alla trasmissione e dare in pasto all'economia anche questa risorsa. Quindi, mentre si dichiarava da un lato di voler privilegiare le radio comunitarie, le associazioni e i progetti culturali dall'altro, con mano pesante si favorivano di fatto soltanto le aziende e le agenzie pubblicitarie. Questo è quello che in realtà è stato l'esito del primo bando, aggiungo io. Continua il nostro comunicato. Eppure c'è un sottobosco, per l'appunto, di radioamatori e liberatori di frequenze che da qualche anno ostinatamente dà battaglia perché le AM possano essere ripopolate con altre logiche. Su ondemediaitalia.it si possono monitorare solo alcune delle tante radio che sperimentano e animano questa porzione di etere. Noi partiamo da qui. Da uno spazio libero, uno status legale incerto ma relativamente favorevole, dalla volontà di fare radio autogestite, fuori dalle logiche commerciali, da una rete di A-Club, collettivi individualità che decide di sostenerle con la sperimentazione tecnica e l'autocostruzione. Abbiamo imparato insieme, sperimentato, sbagliato, rifatto da capo, gioito, sbuffato, tirato su antenne, bruciato transistor, ed è tutto vero aggiungo io, saldato come pazzi, e ora alcuni di noi iniziano ad annunciarsi al mondo. Ripeto, frequenza 1359 su Firenze e su Genova, e spero in futuro su tante altre città. Posti. Questo per sottolineare un pochino l'iter che ci ha visti impegnati in questa faccenda della M. Ho letto solo l'ultimo pezzo di comunicato, ci tenevo perché sì. Insomma, vorrei che questa cosa diventasse un po' un'informazione di tutti quelli che ci ascoltano, devono conoscere un pochino questo cambiamento e le motivazioni che ci hanno portato a questo lavoro. Provate la frequenza 1359 sulla M. E ancora chiaramente, insomma, siamo un po' dei principianti, dei novellini, però ci stiamo rimboccando le maniche, grazie soprattutto a chi poi di tecnico si intende e ci dà la vera mano. Ci dà la vera mano, noi portiamo l'entusiasmo e la voglia di cambiare qualcosa che anche nel piccolo comunque un po' fa. Esatto, per cui e poi abbiamo fatto due giorni di festa bellissima. Il sì. Famoso We Went There Is Back, pronunciato in tutte le maniere da più di un mese. Il 3 e il 4 marzo. È stato bellissimo. I CCC, CNC, NCN sono stati meravigliosi, è stato uno spettacolo stupendo. Che bello, viviamo di ricordi perché non eravamo preparate a parlarvene prima, allora. Esatto, ci stiamo quasi commuovendo. Stiamo recuperando una cosa che dovevamo fare. Abbiamo antico. Servito uno dei goulash più piccanti della storia in quella serata. Wow. E ho mangiato dei dolci più dolci del mondo, grazie, meravigliosi. A una nostra amica vegani brasiliana, questo dolce di banane buonissimo. Io se ci sta ascoltando, io la ringrazio ancora tanto perché è stato un grande contributo, è stato bello comunque perché eravamo in tanti, eravamo tutti eterogenei, eravamo tantissimi, chi suonava, chi cucinava, chi effettivamente faceva la sbatta, come si dice, per sistemare il tutto. Perché il concerto dopo è stato tutto un gran capolavoro. Le cattive bad girl in autodate, tutte e due cattivissime e proprio. Un primo passo del, che ne sentirete parlare forse in futuro, delle ne sorelle sentirete trapasso. Delle belle sulle sorelle. Ripeti il nome, ti ho parlato sorelle sopra, trapasso. Scusami. Le sorelle trapasso sorelle che terrorizzeranno trapasso. Firenze. Sorelle trapasso, sorelle trapasso. Importante. E quindi starete freschi, starete ecco. Tutti molto freschi, si spera soprattutto d'estate. E non faremo altro che cercare di risistemare, migliorare la condizione attuale della frequenza e soprattutto ovviamente non molleremo mai nemmeno la parte web, quindi la nostra web radio, ma sappiate appunto che da un pochettino, annunciato ufficialmente da poco, potete ascoltarci anche sulla M. Ecco. E quindi? Ben vista. Ben vista. E quindi ricordo quarto d'ora. Sì, ma gli ultimi minuti solo per ricordare quello che appunto andava detto in precedenza. Ricordo il crowdfunding che si sta tenendo per Radio Onda Rossa, una nostra radio amica, sì. Che sta raccogliendo dei soldi per comprare un nuovo trasmettitore perché mannaggia, il suo sta morendo. E trovate nel nostro sito un bannerino che vi rimanda direttamente alla pagina del crowdfunding. Manca poco alla cifra reale, ma in realtà serve anche è già stata superata di poco, ma serve ancora qualcosina in più che non è stato scritto per altri vari sbattimenti per poi mettere tutto in piedi. E quindi sarebbe figo qualcuno di voi partecipasse a questo crowdfunding con poco, con tanto, anziché con chissà quanto, non so, quello fate voi. Anziché farvi la tessera di Controradio, come ho sentito negli ultimi giorni. Perché anche loro ora fiorentino. Sono nella sì, fase purtroppo tesseramento. Sì. Certo. Purtroppo sono nella fase della merda anche immagino. Loro, perché la radio... A parte le schifosissime radio cattoliche, Radio Maria e Radio Vaticano, mortacci, non navigano in buone acque. Le radio pseudo-indipendenti, le radio meno indipendenti, ma comunque le radio di piccola, diciamo, pezzatura. Ecco. E quindi, insomma, Radio Onda Rossa merita anche un piccolo contributo, è più che apprezzabile. Ecco. State freschi. Che altro? Basta. Basta. Io non ho altro, però vi voglio far sentire uno spottino a questo punto. Che dici? Sì. Io volevo anche far sentire qualcosa su Ultimo Minuto, visto che si era detto prima, ma ce lo teniamo per la volta prossima. Ah, ok. Sì. Quel bellissimo programma. Te lo ripropongo per la prossima volta. Allora ti faccio sentire questo. Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto. Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile. Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS. Ma fammi leggere un po' gli ingredienti. Controllo E132. Spione di Gommasio. Conservante dei log. Stabilità commerciale. Succo di delega. Del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa. Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti. Bevi, non fatte beve. Ecco, così un saluto anche per ribadire. Così. Ricordatevelo, io me lo devo ricordare visto che purtroppo vivo per lavoro su Skype quasi. Così per gradire, ecco. Chiaro, per forza. Così, va bene. Che dire? Che dire nulla, niente. Che vuoi dire? Si che Galeotto fu. Galeotto fu. Il gran rifiuto. E tutto il resto è storia. E poi vi si racconterà un sacco di altre cose la settimana prossima. Volta. Anche con un piccolo approfondimento sull'Alexio, ecco, Difficilior e sì. Facilior, oggi abbiamo iniziato per gradi, ma martedì prossimo vi famo un brucio così. Brava, hai fatto fischiare bene. Anche la cuffia. L'ho fatto bene, bucio. Senti, Biascica, anzi, martellone. No, io sono Duccio. Sì, ma non sei Nando Martellone. No, io sono Duccio. Ok, io voglio essere Isala. Che bella, personaggio più bello secondo me. Ammazza, mi fa morire quando dice bucio del culo. No, ragazzi, momento revival Boris. Un saluto a tutti gli amici di Boris. La prossima vi tocca. E nulla. Nulla, niente, Nisba, punto. Un piccolo viaggio tra le prime espressioni idiomatiche dantesche. L'abbiamo fatto, vi abbiamo fatto una bella introduzione. La prossima settimana ci sentiamo invece con tutto il resto del percorso. Perché noi il fascismo lo combattiamo con la cultura. Questa te la sei cercata. L'exploit. Ok, sì, me la fascisti. Sono... Fascisti smart. Ma più che altro il Nisba mi ha fatto venire in mente subito. Sì, è chiaro. Quando c'era il Vui. Il Vui. Ovviamente. Vabbè, sintonie a parte, ci sentiamo la settimana prossima. Sempre 19:30, questa volta lo promettiamo, giuro in giurella. No, chiaro. Sempre in streaming oppure in AM. Per chi ha ancora queste radioline che funzionano con la M. E dai ragazzi, le vendono alla Lidl. Guardate sul sito wombat.noblogs.org perché ci saranno anche delle novità sul palinsesto. C'è tantissima rassegna stanca, notizie, news. C'è tanto materiale nuovo e fresco. Quindi ascoltate Radio Wombat tutto il giorno e avrete da goderne. Quindi basta. E potrete dire non li metangere, mi tange. Che bello. Allora vi lascio con l'ultimo pezzo musicale, passo alla R perché ormai... Sì. Si va in ordine alfabetico, se l'ha detto. E buona, ciao. Buona cinesi, giovedì prossimo. Ciao. Ciao Bruschini. Ciao. In Chicago's and Wallows, come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries, something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victory is green and flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be there.